Sono un paio di ascoltatori che hanno posto delle questioni questa sera, che è tutta incentrata su quello che è successo con il test che voi avete promosso alla Camera. La prima è questa: un carrellista dice, ma scusi, io adesso sono andato al lavoro, oggi, proprio in questo momento, stasera, e mi hanno fatto il test, perché noi siamo obbligati, eccetera. Perché non renderlo obbligatorio pure per i parlamentari? La sua risposta qual è? È molto semplice, c'è una legge che io ho reso esecutiva dopo 14 anni che mancava il regolamento di esecuzione, proprio con questo governo. E quindi questi test sono determinati per legge. Sì. Per renderli obbligatori anche per i parlamentari ci vuole una legge. Ma lei la farebbe questa legge? È favorevole a questa legge? Io sono favorevole, ho detto che se viene presentata mi sembra logica e ragionevole che se al carrellista che ha telefonato rischia di cambiare mansione, non viene licenziato e cambia mansione, sì, e così il camionista, e così il pilota d'aereo, se viene trovato positivo al test, mi sembra che sia giusto che anche il parlamentare debba sottoporsi a questo test. Poi le sanzioni magari saranno da determinarsi, però chi svolge un compito delicato come quello di fare le leggi, credo che abbia altrettanta responsabilità di chi appunto fa il carrellista o guida un per esempio pullman, lei a questo deputato risultato positivo, che sanzione darebbe? Il discorso diventa molto difficile perché... Vabbè, me lo dica, secondo lei farebbe un mese di sospensione, due mesi? È una persona che è uscito dalla droga e quindi c'è solo dei residui, ma già in una situazione nella quale ha superato la tossicodipendenza, o se è una persona invece che è schiava della droga e quindi è pericolosa per sé e per gli altri. E un altro ascoltatore invece ha posto questa questione: siccome anche lei su Morgan ha detto bisogna che venga sospeso dal Festival di Sanremo, poi ha detto anche altre cose, per carità, lo sappiamo perché è stato qui in diretta. E allora c'è un'ipocrisia: Morgan ha sospeso al Festival di Sanremo, adesso esce fuori che c'è un deputato o un senatore naturalmente positivo e non viene fuori il nome e non c'è una sospensione. Ma Morgan è uscito fuori perché è stato lui a dire che la droga è terapeutica, che bisogna usare la droga, che fa bene per le depressioni.